Nando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Brussellando, è martedì sera, sono le 21 e come sempre siete in compagnia di Mary D, Georges Laurent e Fiordaliso. Bingo. E Danny M in regia. E ringrazio tutti coloro i quali pure questa settimana ci hanno inviato delle email, vi risponderemo, questa è una promessa, abbiamo soltanto no, domando, è una promessa da marinaio. No, no. Beh, una promessa da Mary D con i marinai potrebbe anche avere affinità, però in questo caso assolutamente no. Bene, noi abbiamo ripreso la nuova, la terza edizione di Brussellando. Come già annunciato la settimana scorsa, tante sono le novità che, come vedrete, stiamo cercando di apportare alla nostra trasmissione, e tra le tante cercheremo di dare molto più spazio a italiani che come noi scrivono, si fanno conoscere sotto questi nostri talenti così particolari, della scrittura, della poesia e di basso, anche di saggistica. Questa sera infatti è qui con noi a Brussellando Elvira Lanza. Cioè, sembra un comizio politico. Care tele radio ascoltatori, tele da lontano e radio perché non c'è altro, ascoltatori, sembrava un comizio politico, incredibile, stai studiato da politico? Sì. Cara Mary D, un tempo. Hai fatto un'introduzione che veramente era degna del mio... incredibile. Era degna di Elvira, scusatemi, era assolutamente degna di Elvira, che scrive già da un decennio più o meno, già da 10 anni. E Elvira poi ci racconterà insomma più nel dettaglio di tante altre cose, tant'è che si divide tra l'attività di scrittrice e di cantante. Ha conseguito numerosi premi letterari, Orso di Biella, L'Almanacco, Laboratorio delle Arti, Nocciolino, e questo solo nel 1999, invece nel 2000 il premio Auctoris. Ha già pubblicato un romanzo breve presente nelle antologie Almanacco 99, Nocciolino, L'Intendersi per Tagli del 2000, Opera d'autore nel 2001. Elvira, benvenuta. Grazie. Siamo molto lieti di averti qui con noi a Brussellando questa sera, e magari rispetto a questa brevissima presentazione, a questa nota biografica, vorresti aggiungere qualcosa? No, è vero che scrivo da tantissimi anni e solo da poco ho cominciato a pensare di voler pubblicare. E in effetti sono contenta perché ho avuto esiti positivi e ho cominciato con i racconti brevi e poi ho continuato con un romanzo e questo è il secondo e sto lavorando a un terzo romanzo. Ed è vero che canto, ho un gruppo, prendo corsi da anni, e in questo romanzo diciamo che questa è una parte biografica, perché autobiografica, perché è un romanzo sulla voce. Un romanzo sulla voce. Da dove nasce questa tua passione per la scrittura e per la musica? La scrittura l'ho sempre avuta, quando ero giovanissima e non so, facevo l'università e dicevo quando avrò finito l'università scriverò, e poi ci sono state altre cose, quando finirò questo scriverò. Poi sono arrivata a Bruxelles nel 91 e ho cominciato a inviare da qui racconti a concorsi. E è stato buffissimo perché guardavo in internet e vedevo che avevo vinto un premio, il secondo premio, il terzo premio, e da lì ho pensato ok, devo andare avanti a scrivere perché è un segno. E contemporaneamente volevo cantare e ho continuato a farlo. Quindi hai anche un tuo CD raccolta di brani oppure? No, ho un gruppo, facciamo pezzi jazz piuttosto standard e blues, composizioni dove io appunto metto le parole e la melodia, però non abbiamo ancora registrato niente. In realtà siamo un gruppo d'amici e sinceramente non abbiamo neanche mai sentito l'esigenza. Facciamo concerti, abbiamo molti riconoscimenti, ma non abbiamo ancora fatto CD. Chissà, è possibile. Quando scrivi, quindi mi sembra di capire che tu sia anche autrice delle canzoni che spesso vi trovate ad eseguire. Noti che ci siano delle differenze nel modo di scrivere una canzone rispetto invece alla stesura di un racconto, di un romanzo, delle tue opere presenti? La canzone è molto più immediata al momento, ma poi deve essere elaborata, bisogna cercare i sinonimi che vadano su quella, sulla melodia, e quindi è più un lavoro di, diciamo, di fino. Mentre il romanzo comincia dalla struttura. In ogni caso io ho una struttura, metto giù un piano e lo rielaboro varie volte. La canzone viene di getto su un sentimento, su anche di qualcosa a livello sociale, ma in genere sui sentimenti, e poi il lavoro che ci faccio è minimo, mentre un romanzo è un lavoraccio. Passo molto più tempo. E invece per quanto riguarda quindi cosa nasce prima? Scusa la mia, magari la mia domanda potrà sembrarti strana. Nasce prima la musica di una canzone o le parole o viceversa? Nel caso mio e dei miei amici nasce prima la musica. Loro compongono, ci sono due chitarre, un basso e la batteria che viene dopo, in genere li chiamiamo dopo. E io sulla musica metto la melodia e dopo la melodia le parole. Mi ispiro, ascolto la musica, vedo delle immagini nella mia testa, dico cosa mi ispira questa musica e metto giù una melodia e il testo. Il testo segue. Io invece mia figlia lo crescerò da sola. Anzi, io rimarrò per sempre sola. Quale uomo si avvicinerebbe ad una ragazza madre? Perché sarò considerata in questo modo. Non una donna indipendente che ha voluto seguire il suo cuore e la sua passione. Non una donna che ha avuto il coraggio delle sue decisioni, no. Niente di tutto questo. Sarò soltanto una poverina la cui vita non è stata certo baciata dalla fortuna. Una povera disgraziata che non ha ragione di esistere perché non ha un uomo che si prenda cura di lei. E magari sarò anche una cantante fallita perché mi considereranno una poco di buono e nessuno avrà il coraggio di farmi lavorare. Trascorrerò il resto della mia vita a fare la donna di servizio tirando su un figlio che un giorno se ne andrà odiandomi perché non gli avrò offerto una vita normale. E in fondo chi sono io per poter cambiare l'ordine delle cose? Le vennero in mente le parole di Walter una sera in cui avevano litigato. Tu credi di essere diversa dagli altri, ti senti superiore a tutti e invece sei solo una bambina viziata. Poi il giorno seguente si era presentata a casa sorridente. L'aveva abbracciata porgendole un pacco al cui interno c'era un vestitino di seta e Dio solo sa quali espedienti aveva usato per procurarselo. Quello di portarle dei regali dopo una lite era il suo modo di farsi perdonare. Forse l'amore è solo questo, pensò. Forse la vita è fatta di queste cose. I battiti del cuore. L'attesa impaziente di vedere il tuo innamorato per sentirsi bene. Tutto ciò è solo romanticismo. Oppure l'amore lo si vive una volta sola e dopo ci si trascina nella speranza di ripetere qualcosa che non può più accadere. Giorgio ha letto un brano tratto da Una voce spezzata, di cui probabilmente Elvira poi ci racconterà magari la genesi e l'evoluzione e magari anche qualche episodio un po' più divertente legato alla stesura stessa di Una voce spezzata. Quando hai scritto questo romanzo? Allora, questo romanzo l'ho cominciato tanti anni fa Ero arrivata a Bruxelles, avevo trovato un lavoro, un contratto che durava fino a un certo periodo, poi sono rimasta incinta e non mi hanno rinnovato il contratto. Perché è nata la mia bambina e il mese dopo non sono più rientrata, insomma non me l'hanno rinnovato, e quindi mi sono trovata a casa, ho tirato su questa bambina e a un certo punto ho sentito l'esigenza di fare qualcosa di più, di riempire questo spazio che è così, che a un certo punto era vuoto, e ho cominciato a scrivere. E scrivevo nei momenti liberi, non era facile chiaramente perché era piccolissima, quindi scrivevo quando dormiva. E tra l'altro in quel periodo il mio compagno stava registrando un disco in una bellissima casa, Rix and Sar, e mi ricordo che li avevo seguiti, vivevamo là, e quindi le idee sono venute anche da quell'atmosfera. E dalla musica, insomma, da questo gruppo di amici che faceva musica, e ho cominciato così a mettere giù la trama, e capitolo per capitolo, piano piano, quando potevo, e sono andata avanti, e poi ho ritrovato lavoro, e il libro è rimasto nel cassetto, e dopo un po' di anni ho deciso di rilavorarlo. E così è nato il libro. L'ho presentato ad alcune case, piccole case editrici, con altre sono in contatto ancora adesso, ho avuto degli echi positivi, quindi episodi divertenti. In parte è una storia che conosco, non è legata a me, ma ad una persona che mi è molto vicina. E la storia di una donna negli anni 60, comincia negli anni 60 e finisce più o meno ai nostri giorni, di una donna che voleva cantare, era il suo sogno, era brava, poi ha incontrato un uomo che faceva teatro e che gli ha fatto vedere un futuro diverso fuori da questa cittadina di mare dove era sempre vissuta e dove lei aveva incontrato un grande amore, che però era stato ostacolato dal padre perché era legato a delle situazioni familiari di questo suo grande amore, e quindi diciamo lei è fuggita, non è fuggita, ma ha deciso di lasciare casa sua e di seguire quest'uomo che alla fine aveva gli stessi sogni di lei, perché faceva teatro, voleva diventare anche lui qualcuno, e quindi c'era anche il problema della gelosia, ed erano degli anni difficili, non esisteva il divorzio, non esisteva che una donna se ne andava così, e a un certo punto del libro lei decide di continuare la sua carriera finché aspetta un bambino, si rende conto che aspetta un bambino e decide di rimanere con questo, col suo bambino. E poi c'è tutto un peregrinare da una città all'altra, insomma, vabbè, adesso non vorrei raccontare tutto il libro perché se no tolgo la sorpresa, sì, esatto. Però insomma è importante, questa donna alla fine riesce a liberarsi da questo uomo e voilà, quindi si emancipa. Si vedrà che cosa succede una volta che si è liberato da questo uomo. Sì, poi questa è la trama così, diciamo in generale, ma ci sono tante altre situazioni dietro. Ci sono dietro, delle sottostorie. Sì, sottostorie, sottopersonaggi, quindi c'è il problema, ci sono, è importante il personaggio del padre, dei padri e delle madri. Certo. Perché, vabbè, lei che fugge da suo padre e poi si trova con un uomo che non fa che rispecchiare il modello paterno, ed è tutta una serie di incastri, di situazioni così. Il titolo come nasce? Una voce spezzata? Una voce spezzata perché appunto è importante il canto e perché lei non riesce a realizzare questo sogno e soprattutto non era ascoltata, faceva fatica ad essere ascoltata in famiglia e dal suo compagno, non veniva considerata, forse perché all'epoca era più difficile, chissà, magari sa, probabilmente. E se uno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici volesse acquistare questo libro, dove possiamo trovarlo? Il libro si può trovare alla libreria Piola, se ce ne sono ancora, se no vabbè, si può ordinare, se no si può entrare sul sito Il Mio Libro e si può ordinare via internet. Quindi ricordiamo il sito. Se no si può, mi possono contattare e io lo procuro, lo faccio avere. Beh, si dovrebbe trovare anche su Amazon, sì. Credo, no? Si trovano su Amazon o sui siti di libri? Non lo so, questo non lo so. Devo fare una ricerca. Non ho fatto una ricerca. Questa è colpa mia, mea culpa che non ho fatto una ricerca. Vedremo strada facendo, abbiamo per fortuna anche il blog, disponiamo anche di un calcio d'angolo. Ferma, hai il microfono, sto toccando il microfono, non devi toccare il microfono. Io? Figuriamoci, ecco. Se io tocco il microfono. Hai toccato il microfono perché ha vibrato e si è sentita più, sì? La tua voce. No, in realtà sì. È stato il rimbalzo del libro. Era la voce spezzata, era l'altra metà che fuoriusciva. L'altra voce spezzata. La forza di romanzo che entra anche in radio. Sai, mi capita anche questo. Beh, vabbè, come avete capito, ormai l'avete capito da quasi 20 minuti, Elvira inaugura quello che è, aveva detto già all'inizio Mary D, la nuova stagione, le nuove idee di Bruxellando, che è quella di provare a cercare, a sponsorizzare, a far conoscere e insomma a portare in giro per Bruxelles attraverso le onde di Radio Alma e nell'orario della radio italiana di Radio Alma 101.9 l'esperienza di italiani che all'estero, anzi in particolare a Bruxelles, ha cominciato a fare qualcosa. Ecco, Elvira è la prima invitata e la prima donna italiana che lavora a Bruxelles e che a Bruxelles ha prodotto qualcosa e vive come artista a Bruxelles. Ora ovviamente a volte succede di trovare gli artisti che vivono del proprio lavoro di artista. Molto spesso gli artisti vivono di altro e poi comunque sono artisti, cioè l'arte, il fatto di essere un artista non dipende dal lavoro che uno fa, perché a me piace dire che faccio l'attore e poi lavoro per mantenermi, per mantenere il mio mestiere di attore, cosa che non è proprio vero, perché in realtà per me essere un attore è un hobby, anche se in realtà mi piacerebbe che fosse qualcosa di diverso, ma insomma non ho le qualità per essere qualcosa di diverso, non importa. Mi diverto, sono un artigiano invece che un artista, e vabbè, comincio con le stesse quattro lettere, anzi cinque, a dire il vero. Quindi sono molto contento che Elvira sia qua, perché è un momento, è un bel momento, insomma, cominciare così. Tu prima dicevi che avevi dell'immagine nella testa. Mi spieghi questo concetto di immagini, fra le immagini che hai nella testa e la scrittura? Vengono prima le immagini e poi la scrittura come descrizione delle immagini, o viceversa? O si costruiscono insieme? Come funziona? Beh, a volte viene, spesso, nel mio caso, viene prima l'immagine e poi la scrittura. Le immagini possono essere date da una fotografia, da un paesaggio, da una frase che ti rimanda a un'immagine, o da anche dai film. Immagini di un film, o a volte anche immagini di canzoni, però più sulle parole, le canzoni. E quindi per me è molto importante l'immagine. A volte nascono dei racconti anche dalle frasi. Per esempio, ho scritto un racconto su una frase detta da un signore sulla comunicazione. Era una conferenza, veramente una cosa molto seria, e diceva in un treno c'era un signore che non riusciva a fare un viaggio comodo, rilassato, perché c'era un bambino che lo disturbava sempre, e quel bambino aveva un problema. Se il signore che lo accompagnava avesse spiegato che quel bambino era così perché aveva un problema, molte cose sarebbero andate meglio. E io, da una cosa così, ho creato tutta una situazione. Mi sono immaginata il treno, il compartimento, questo bambino, che cosa gli è successo, cosa poteva essergli successo, chi era quel signore che lo accompagnava, e da lì nasce un racconto. Per quanto riguarda la musica, beh, la musica trasporta e quindi da lì nasce il tema del testo, l'amore, il viaggio, ho scritto un testo anche su, sì, sui viaggi in mare, che è molto attuale in Italia in questo momento. Sui viaggi in mare, sì, in che si senso? Chiama, cioè, si chiama Travels, su gli immigrati che attraversano, ah, certo, il mare, che arrivano, che finiscono in mare, la speranza di questa gente. E quindi niente, in me le immagini sono molto forti, ma ci sono scrittori che non fanno così, che si mettono lì e cominciano con la prima frase e qualcosa. Ah, no, certo, la produzione creativa ha dei percorsi, ognuno ha il suo, sì, diverso, eccetera, anche per, sì, me funziona, sì, sì, sì, molto con le immagini, insomma, lavoro molto con le immagini, però qualcuno mi fa segnare la regia, io mi distrago, essendo io omino, mi distraggo, potete anche voi. La notte ha mille porte, nella testa c'è una città intera, che soffia e che respira, che soffre e che vi attacca. Elettricità, fuoco, acqua. La risata eclatante del vostro amico Claudio. I cattivi gusti musicali di vostra cugina vi mancano? Col Pay and Go International rimanete in contatto con i vostri cari. Chiamate ed inviate SMS verso reti fisse e mobili in Italia a tariffa nazionale. Informazioni o condizioni su proximus.be/international o in uno dei nostri punti vendita. Proximus. Così tanto, così vicino. Insieme con Belgacom. Ed eccoci nuovamente qui, voilà. Siamo sempre a brussellando nonostante la Proximus, insomma, la pubblicità purtroppo serve anche a noi. Siamo in compagnia, ma qui a brussellando. Piano. Io già volevo voltare pagina. Forzatamente negativa, eh? No, assolutamente, però a volte quando ascolto dei testi pubblicitari mi viene dubbio. Ascolta questo testo pubblicitario. Elvira Lanza, una voce spezzata nei vostri cuori, da adesso. Ecco. Ti è piaciuta? Molto. Vedi, non è sempre negativo un messaggio pubblicitario. No, quello della Proximus mi aveva lasciato un attimo così. Vabbè, Proximus, ama il Proximus tuo con, no, te stesso. Non conosco ancora Georges Laurent, è ovvio, mi sembra chiaro. Allora, una voce spezzata, Elvira Lanza, nostra ospite, graditissima qui questa sera a Brussellando. Elvira, cosa bolle in pentola? Quali sono i progetti ai quali stai lavorando? Sto rielaborando un secondo romanzo che è finito un po' di mesi fa e quindi niente, sto facendo lavoro di riscrittura e poi anche questo lo vorrei presentare a delle case editrici. Il tema è completamente diverso, qui il protagonista è un ragazzo più che uomo, 30 anni più o meno. Sì. È il terzo millennio, 30 anni, è un ragazzo. Ed è più sul sociale, direi. E ci ho messo tanto a scriverlo perché è legato al mio passato. Non è un libro d'amore, che immagino che tutti pensino, no. Ci sono delle fasi d'amore, ma non è legato a quello. Non c'è solo l'amore. No, non c'è solo l'amore. E quindi è un libro che è stato molto sofferto per me e anche questo spero che possa circolare, perché per me è importante che un libro circoli. Sì, che sia venduto, però non è lo scopo ultimo. Come le idee. Infatti. Hai già un titolo per questo tuo nuovo romanzo? No, ma che domande fai? Come dire, come si chiamerà il tuo prossimo bambino? Allora, no, lei dice un titolo. Lei dice un titolo e dico un altro. No, ho un titolo perché quando lavoro al computer ha un titolo, il lavoro si chiama Chicco, ma non è il titolo definitivo. Bene, era per avere un'idea. sì, non è il titolo definitivo. È il nome di questa persona, del personaggio del libro, ma lo cambierò, ci sto pensando, ho un po' di cose in testa. Ambientato in Italia o qui all'estero? Ambientato in Italia, a Milano, questo è spudoratamente ambientato a Milano, e negli anni 70-80, sì, perché vabbè, a me piace ricordare, certo. Non ricordare, però non lo so, sto pensando che nel futuro scriverò qualcosa di quest'epoca. Sì, infatti. Ma raccontami un po', cioè i tuoi libri sono, allora, la scrittura, volente o nolente, autobiografica, se non, nel senso che uno mette dentro qualcosa di sé. Sì. Ma al di là di questo, che insomma è ovvio, evidente, ma i tuoi libri sono anche autobiografici, la descrizione di personaggi o in certe proprio certe strutture di personaggi o in certe storie o no? No. Ok. Cioè, i personaggi, mi rifaccio dai personaggi che ho conosciuto, quindi non sono mai, non sono, io non ci sono mai. È chiaro che quando descrivo dei personaggi, ci sono delle parti di me, dei pensieri che vengono fuori. Beh, sì. Ok. Ma soprattutto sono personaggi esterni, e quando li descrivo sono piuttosto, i caratteri sono messi giù a tavolino, cioè uno è così, l'altro è così, e quali sono le caratteristiche sociali, psicologiche, così insomma sono creati. Non dico, ah, io voglio parlare di quella persona che era così. È chiaro che in linea di massima il personaggio si avvicina alla persona che ho conosciuto, ma altri tratti distintivi li aggiungo io, li do io. Ma di mio non c'è veramente molto. Tutti, non so perché, leggono e dicono, ah, questa sei tu. No, sono io. Beh, perché è ovvio. Perché è normale, lo so. Uno, perché credo che, da un lato è vero che non ci tradiamo noi stessi. Mm. Abbiamo dei gesti che uno, sì, dice, questo sei tu. Ma non è vero. Questo, sì, questo è un gesto che fai. Non è vero, io non lo faccio mai. Sì, è proprio tuo. Quindi uno dice, ah, cioè, c'è qualcosa di noi stessi che traspare anche se noi non vogliamo. Sì. Beh, è l'altra cosa, perché in effetti credo che la genericità di certi comportamenti umani faccia poi la fortuna delle fattucchiere. Sì. Se ti leggo il futuro, certo, grazie, a me arriva sempre bellissimo. Da circa 2 anni mi arriva sul telefono l'oroscopo. Che quello che mi arriva da Vodafone, lo metto, non è pubblicità, perché non so poi da dove lo prendere, insomma, io perché ho il cellulare di Vodafone. Ed è precisissimo. Ed è precisissimo tutte le volte che io dico, Tom, è successo questo, che però non è proprio tutti i giorni. Allora è preciso una volta ogni 30, ho detto, ma una volta ogni 30 ci si imbrocca sempre. Se dico oggi sarà una bella giornata, te lo dico per 30 volte al mese, vedrai che uno di questi giorni dici, è proprio vero, che bravi, come hai fatto a indovinarlo? E beh, certo. Quindi ci sono delle cose generiche che si possono, e quindi uno dice, questo sei proprio tu, perché una persona vede qualcosa di te in un personaggio, come io posso vedere qualcosa in una persona in tante altre persone. Quindi questo credo che sia proprio una cosa che va accettata, che insieme sia il tradimento di se stessi, che l'altra cosa. L'accetto. Elvira, prima di salutarci, perché no, ma io una domanda, no, è un'ultima domanda. Siccome parlavi di descrizione di personaggi a tavolino, hai per caso fatto un laboratorio di scrittura o è tutto? Sì, io ho frequentato parecchi stage con una scuola di Roma che si chiama Omero. A Roma? A Roma, scuola Omero, è stata la prima scuola di scrittura in Italia, prima ancora della Holden, e niente, vado a fare gli stage in estate e sono iscritta anche online con la stessa scuola. Ci sono 2 persone bravissime che ti seguono e sono veramente 2 personaggi notevoli. Tu lo consiglieresti a quanti volessero intraprendere la carriera di scrittore, frequentare questi corsi di scrittura creativa, chiamiamoli insomma di scrittura creativa? Beh, io lo consiglio perché innanzitutto a casa il tempo è poco, perché ognuno è preso da 100.000 cose, famiglia, questo, quest'altro, chi più chi meno, e a volte le attività esterne e tutto questo ti distruggono e non riesci, anche se hai voglia, fai fatica a scrivere. E gli stage, le scuole di scrittura servono proprio a concentrarti, sei lì, ti dicono, non so, questo è un tema in base a qualcosa, scegli un tema e sei costretto a scrivere per forza. Alla fine di quella settimana devi consegnare qualcosa e solo per questo lo consiglierei. E poi c'è il discorso che comunque sei in un ambiente, fai solo quello, ascolti quello che gli altri scrivono, nel caso della scuola di scrittura Omero c'erano molte letture e quindi sei immerso proprio, cioè la full immersion aiuta, quindi io la consiglio. Poi è chiaro che talento, beh certo, cioè non ce l'hai solo la scrittura, voglio scrivere. Quanto dura poi in media un corso di scrittura? Dura, ci sono vari moduli, ci può fare un anno, due, può durare anche 4-5 anni, ma secondo me dopo un po' non dà più niente. Certo. Penso che dopo 2-3 anni basta, bisogna lanciarsi e fare altre cose. Bene, come avevo già annunciato, allora prima di salutarci, ci sono persone in particolare alle quali vorresti inviare un saluto oppure semplicemente ringraziare? Sì, vorrei ringraziare i miei amici di Bruxelles, i miei amici italiani che sono stati veramente preziosi, sia per quanto riguarda la diffusione di questo libro, ne hanno parlato, l'hanno letto, mi hanno sostenuta in ogni modo, veramente in ogni senso, anche solo dal fare le fotocopie quando ne avevo bisogno. Quindi vorrei veramente ringraziarli, vorrei ringraziare la mia famiglia perché anche loro sono sempre stati molto vicini a me in tutta questa fase, e mio compagno e mia figlia che mi sopportano quando dico senti non ho tempo, ti prego lasciami un attimo di tempo, pensaci tu, sono lì. Bene. Noi tutti di Bruxellando ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Ricordiamo a quanti si fossero messi soltanto adesso all'ascolto: Elvira Lanza, Una voce spezzata, disponibile presso la Libreria Piola qui a Bruxelles oppure in internet ilmiolibro.it. Elvira, grazie, speriamo di averti nuovamente qui nostro ospite, magari spero per il prossimo romanzo di cui già ci hai accennato. È andata alla Piola, grazie. O scrivete al blog di Bruxellando che il libro ve lo procuriamo, non vi preoccupate. How can you see into my eyes like open doors? Siamo pronti? Io non posso parlare senza la mia sigla. Ha bisogno della Librangolo. Ecco. Ora mi sto sentendo un po' meglio, ma forse non parlo lo stesso. Va bene. Allora, signori, io vi prego di prestare parecchia attenzione perché questa sera è un battesimo del fuoco per Fiordaliso. Dai. Sì, ma vi rivelerò alla fine in che cosa consiste il battesimo del fuoco e perché è un battesimo del fuoco. E l'acqua santa chi è? Credo che non ci sia. No, almeno non in questa stanza. No. Vabbè. Poi vedremo. Io stasera pensavo veramente di parlare del premio Nobel. Dario Fo. Quello lo lascio a voi, perché io essendo e continuando ad essere una straniera, io rimango fuori dai confini, mi sa, anche se mi dispiace, ma cioè prima o poi recupererò. Recupererò. Quali confini? Va. Cioè dai confini, cioè veramente la ragione per cui cioè, qua mi stanno proprio facendo un battesimo di fuoco di distrazione più o meno, però ecco io per cioè continuerò indefessamente. Non usare parole troppo difficili, soprattutto alle 21:40 di martedì sera. No, è che mi piace tanto, anche se non so cosa vuol dire, però. Lavoratore suona indefesso. Bene, suona hai bene. Visitato la pagina Twitter di Bruxellando? Ci ho visitato la pagina Twitter, che cos'è? Oh, Twitter? Questa gente vive in un secolo diverso, non ti preoccupare. Io sono nato nel secondo millennio, ragazzi. Perché a proposito di parole strane, abbiamo postato un link a un articolo del Corriere della Sera che parla del nuovo Zingarelli che sta proponendo tutta una serie di parole in disuso, come ameno, parole di questo tipo. E scrivi anche tu. Loro iniziano l'articolo facendo, insomma, un paragrafo utilizzando tutto questo tipo di parole. E Giorgio, Bellissimo. Sei venuto in mente subito tu. Bellissimo. A meno, anche se a meno secondo me è più romano che, cioè, da come a meno. Cioè, no. Ah, in quel senso, a meno che non nel senso a meno, e tu che io meno, a meno, a meno. Cioè, vabbè, comunque. Stiamo allontanandoci dal libraccolo. Dai, molto, cioè, quasi rivoglio la sigla. Facciamo una mini sigla, librangolo. Ecco. E comunque, la ragione per cui mi è venuto in mente il premio Nobel era il fatto che la settimana scorsa, penso, hanno annunciato il nuovo premio Nobel per la letteratura del 2009, che è Herta Müller. E la specialità di Herta Müller è che è una tedesca della Transilvania. Ah. Allora lì ritornano i confini, perché cioè, ritornano i confini e ritornano i miei confini, diciamo. E comunque è uno strano sentimento vedere qualcuno cioè premiato che proviene dallo stesso contesto mio, diciamo. E non posso, diciamo, festeggiare perché non la conosco, il che è un gran peccato, cioè non ho mai letto un libro suo, è una cosa che da decisamente da... Un vuoto da colmare. Un vuoto da colmare, grazie. E quindi comunque pensavo di evocarla e dire che ho letto che nei suoi romanzi si occupa soprattutto della vita nella dittatura e anche della sua condizione un po' dentro questa dittatura, e poi vi farò sapere quando avrò letto cosa esattamente. Comunque la ragione per cui cioè il premio Nobel ha sempre un ragionamento che a volte è quasi poetico per dare la ragione per quale uno scrittore o una scrittrice riceve il premio. E nel caso di Herta Müller questo era per la concentrazione della poesia e la franchezza della prosa con la quale dipinge il panorama dello spodestato. Capiremo poi. Panorama dello spodestato. Quindi anche noi italiani? Beh, forse vi ci ritrovate, non lo so. Leggiamo, poi vi facciamo sapere. Comunque, sì, stai... Non sta pensando ancora alla parola spodestato. Alla situazione dei spodestati. Essere spodestato. Sì, in che senso questa Herta Müller usa questo... Riparliamone, questa dai, abbiamo ancora una settimana per riparlarne, martedì. Abbiamo una settimana per prendere il libro, di dove? Non è così facile, perché veramente non è tanto tradotta, lei scrive in tedesco, ovviamente, vive in Germania e non si conosce semplicemente, cioè fuori dai confini della Germania non si conosce. E che c'è problemi per finire da lì, so. Abbiamo fatto più un po' di post. Allora. Allora, quindi... Quindi io, pensando a Herta Müller, ho anche ripensato alla lista degli scrittori premiati Nobel di cui libri io conosco, diciamo. E ho pensato anche al metodo del comitato Nobel di scegliere i libri che deve essere, cioè prima di tutto deve essere una cosa molto difficile, cioè loro funzionano in base a nominazioni dalle varie accademie, anche nominazioni degli scrittori che precedentemente avevano vinto il premio Nobel. Quindi comunque devono pescare dall'intero mondo, mi sembra proprio una cosa impossibile, cioè per esempio cioè, impossibile conoscere tutto quello che c'è e tutto quello che varrebbe la pena di conoscere e di considerare, quindi la scelta deve essere sempre comunque una cosa, penso, un po' soggettiva e non può mai riflettere tutto ciò che in un certo periodo nel mondo è nato. Però diciamo che un paio delle opere che sono state premiate comunque infatti conservano il loro valore per il lettore attraverso i tempi anche fino ad oggi. E quindi io pensavo di menzionare un paio dei miei preferiti, perché sono così soggettiva anch'io. mi si permette. E quindi pensavo di menzionarvi per esempio il grande John Steinbeck, che di cui motivazione per aver ricevuto il premio, per esempio, suona per le sue scritture realistiche ed immaginative, unendo l'umore sensibile e la percezione sociale acuta. Cioè, fondamentalmente lui ha ricevuto, penso, il premio piuttosto per il suo libro Furore, che questa descrizione rispecchia molto. Ma devo anche confessare che a me questo libro non mi ha dato tanto, cioè l'ho trovato un po', non riuscivo a comunicare bene con questo libro. Invece quella che è la mia preferita rimane La Valle dell'Eden, che per me è un libro così ricco di storie, così ricco di sorti umani, così diversi fra di loro, che proprio contiene tutta la vita, cioè non è soltanto una realtà semplificata, è proprio una realtà ricca di come conosciamo anche noi la vita, con le sue complessità, ci sono dei personaggi fallibili, ci sono dei personaggi che ti fanno ridere, i personaggi che ti fanno sognare, ci sono personaggi che soffrono, ci sono personaggi e vivi la sofferenza e la gioia, che è proprio l'insieme di tutto quello che viviamo anche noi. È per questo che io avrei dato piuttosto il premio Nobel, però non dipende. Beh, da me, io lo sai che proporrei quasi di istituire il premio Bruxellando. Evviva! Mica sembra male. Alziamoci. Fermiamoci qua. Da qui a un annetto, io direi che... Qui ci sono delle... Vedo delle mire imperialiste. Perché? Giorgio, andiamo avanti, provoco, andiamo avanti. Che staremmo istituendo il premio Bruxellando, non il premio Georges Laurent. Ah, quindi vuol dire che c'è il collettivo Bruxellando? Non mi piace uguale. Andiamo avanti. Collettivo Bruxellando. Sei proprio antipatico. Ma quante idee bizzarre che nascono così. Bellissime però. Prego. Ed ecco che passiamo a Gabriel García Márquez. Ah. E vediamo la sua. Mi sento solo. Perché? 100 anni. Ah, di già. Vecchio son vecchio, solitudine si prova, insomma. Insomma. Andiamo avanti. È il mio refrain di questa sera, andiamo avanti. Quindi Márquez, per i suoi romanzi e racconti, nei quali il fantastico e il realistico sono combinati in un mondo riccamente composto che riflette la vita e i conflitti di un continente. E direi che anche questo è vero. Sì. Cioè, anzi, è molto vero. Cioè, in questo caso si potrebbe applicare anche su tutta la sua opera, perché sembra proprio la sua ragione d'essere come artista e di presentarci questa mescolanza di mito e di vita, di conflitti e di storie umane che potevano nascere soltanto nella sua terra, probabilmente. Cioè qua già Georges ha avvocato 100 anni di solitudine, ma vorrei ribadire che non è il suo solo libro, e anzi, cioè, vale la pena leggere tutto il resto, perché è uno scrittore prolifico, ma è anche uno scrittore che è proprio bravo, di nuovo, un'opinione soggettiva, premio Bruxellando, anzi premio Librangolo, però vi raccomando anche, per esempio, L'amore ai tempi del colera, vi raccomando anche Una morte preannunciata, vi raccomando Al generale non scrive nessuno, non so com'è esattamente il titolo italiano, comunque vi raccomando di leggere Márquez. Ma è ancora vivo? Che domanda. Sai che mi viene un dubbio? E scrive ancora? L'ultimo suo libro è uscito non tanto tempo fa, infatti, cioè La memoria delle mie puttane stiristi. Sì, esatto. 2 anni fa. E ragazzi, ancora vivo, adesso sta creando un sacco di problemi proprio questo libro, perché sembra un'apologia, ed è stato bloccato dai cubani perché sì, è un'apologia della pedofilia nel momento. Insomma, c'è tutta una diatriba dietro a questo, lui si è difeso dicendo: scusate, avete tutti ragione, il mio libro è una provocazione, tutte hanno ragione di dire quello che vogliono sul mio libro, io ho solo il diritto di scriverlo. Concedetemi questo diritto, voi poi giudicate come ai posteri l'orto. E così abbiamo detto anche qualcosa. Grazie, ma che ti diamo ancora un minuto. È solo un minuto? Sì. E allora quindi non mi rimane tempo né per Orhan Pamuk, Next time, né per Doris Lessing, beh, e nemmeno per Imre Kertész, l'ungherese. Dai, lui sì, dai. Per Imre Kertész. Non conosco. Ovviamente, cioè. Ci piace prendere in giro Fiordaliso. Vai Fiordaliso, raccontaci di Imre Kertész. Beh, non vi racconterò a lungo di Imre Kertész, se ciò vi consola. 50 secondi. Cioè, lui ha ricevuto il suo premio per una scrittura che sostiene l'esperienza fragile dell'individuo contro l'arbitrarietà barbarica della storia. Ed infatti ha ricevuto il premio piuttosto per il suo libro che si chiama in italiano Essere senza destino, che descrive la storia di un ragazzo ebreo quindicenne che deve sopravvivere all'esperienza del ghetto, mentre il suo mondo quando torna lo trova tutto cambiato. È un libro bello, io ho letto anche altri libri di Imre Kertész e devo dire che non è uno scrittore facile. Penso che Essere senza destino sia il suo libro di più facile interpretazione fra tutti, cioè il resto è proprio, contiene un'emozione concentrata, ma anche in un certo senso razionalizzata, che è molto difficile a volte da gestire, diciamo. Comunque è uno scrittore interessante, quindi se vi è venuta una curiosità, ve lo raccomando di leggerlo. È passato già il mio minuto? Sì. Allora vi dico addio, o piuttosto arrivederci per la prossima volta. Librangolo. È la sigla di chiusura. Life's like this. That's the way. Eccoci qua, eccoci nuovamente a Bruxellando. Siamo quasi verso la fine di questa nostra terza puntata della terza edizione. Con noi ancora in studio Elvira Lanza, che ricordiamo essere stata nostra ospite per quanti si fossero messi all'ascolto soltanto adesso. Bruxellando è anche agenda, ci sono tanti eventi che caratterizzano ancora la settimana bruxellese, e ci fa piacere ricordare gli spettacoli organizzati dal titolo Un autunno con Ascanio Celestini. L'autore è Ascanio Celestini, non sarà qui lui presente a Bruxelles in prima persona, però ad interpretarlo ci pensa Pietro Pizzuti, attore poliedrico, ugualmente regista, di cui già abbiamo sentito parlare qui a Bruxellando, e che finalmente e probabilmente avremo anche nostro ospite prossimamente qui nei nostri studi. Un autunno con Ascanio Celestini, il teatro in francese, il prossimo 24 ottobre, Pecora Nera, Histoire d'un idiot de guerre, il 29 ottobre e l'8 novembre, mentre Fabbrica, 24 novembre e 3 dicembre. Per quanti volessero sapere di più, andate in internet reloadbruxelles.be. Per quanti invece fossero già curiosi, chiamate per sapere se ci sono posti disponibili allo 02 507 8361. Ma Ascanio, a meno pure lui viene, a meno Ascanio, no, ameno. No, dai, che viene vabbè, allora, visto che dobbiamo ricordare delle cose, ricordo che il battesimo del fuoco di Fiordaliso questa sera è dovuto al fatto che lei di solito scrive tutto quello che dice, questa sera no, nel solco aperto dalla Commedia dell'Arte, non ieri e nemmeno l'altro ieri, ma prima, molto tempo prima, ha improvvisato con un canovaccio, come faceva poi anche Totò con un canovaccio, improvvisava. E così ha fatto anche Fiordaliso, quindi insomma benvenuta nella tradizione anche di Bruxellando, che è questa tradizione. Un grande viaggio che non finisce mai. Il viaggio è partito con la parola viaggio, Bruxellando, chissà per quanti anni andrà avanti, ed è ancora lì, siamo ancora in viaggio. E visto che parliamo di viaggio, parliamo del mondo antico, che è un viaggio che ci portiamo dietro nella vita, noi almeno noi italiani, che abbiamo tutta questa storia nei palazzi, a differenza a differenza de degli americani non ce l'hanno. Conferenze americane che non ce l'hanno. Sì, stiamo andando via. Allora, al Museo Reale delle Belle Arti, cosa danno? Danno del Vo e il mondo antico. Insomma, vale la pena sempre andare. Voi? Del Vo, non del voi. So, del Vo e il mondo antico. È inutile parlare del mondo Po antico, dare del voi. Inutile parlare di Po del Vo. Vale sempre la pena, ragazzi. Mettete il naso al teatro, mettete il naso al Palazzo delle Belle Arti, al Beaux-Arts. Andate in giro, ficcatevi da qualche parte alla sera invece che guardare davanti alla TV con la scatola magica, che per me è magicissima, perché quando si apre io mi imbambolo. È magicissimo o antipaticissimo? È magicissimo, la scatola magica. Ha la capacità di ipnotizzarmi. Sì. Quindi bisogna. Anche Giorgetto, spegnetela, uscite, andate a teatro, andate in giro ad ascoltare, provocatevi, girate le idee. Per quanti volessero sapere di più degli eventi della nostra agenda, Dani M, dove li possono ritrovare? brussellando.blogspot.com. Perfetto. Si è sentito poco, brussellando.blogspot.com. Tra poco ci sarà la rivoluzione d'ottobre anche brussellando. Sì, sui microfoni. E comunque ricordatevi, c'è un'esposizione Memoria e Migrazione all'Heritage del Nouveau Brussel Loise ed è qui ti voglio alla Quai Pierre de Taille 28000 Bruxelles. Archive à Museum for at Drams, Levens, Brussels. Non è proprio alla modica cifra di un euro il prossimo 30 vabbè, comunque, insomma, va visto perché parlavamo prima di migrazione, parlavamo di confini, di spodestamenti, parlavamo del nostro amico Imre Kertész e del suo destino, del ragazzo ebreo. Sto morendo. Noi salutiamo tutti, ciao. Cari amiche, cari amici, grazie ancora Elvira.